Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Di che cosa parlate ciao, oggi, begli uomini e belle donne? Allora, oggi parliamo di una serie televisiva che ha grandissimo successo in America. Peccato che in Italia non sia ancora arrivata. Speriamo arrivi presto, perché sta avendo un successo pazzesco. Si chiama The Sopranos. Uh-huh. E ha a che fare un po' con la situazione mafia, no? La famiglia. E quindi oggi vi parleremo un po' di quello. Uh-huh. E poi ci sarà ovviamente come al solito Manuela Gonen a portarci un po' di attualità su quello che succede negli Stati Uniti. Poi avremo un ospite in studio. Avremo un ospite in studio, è la settimana della moda a New York. E avremo uno stilista italiano che fra l'altro è l'unico stilista italiano che sfila a New York questa settimana. Ed è Luca Orlandi, uno che ha semplicemente un paio di negozi sulla Madison Avenue. Così, tanto piccoli, povero. Un altro e Jimmy. Poi vi porteremo. Sì, un altro Jimmy, esatto. E poi vi porteremo anche per qualche minuto in Cina. Beh, voglio dire, la Cina newyorkina. Sono andata a Chinatown e vi racconterò cosa è successo, i suoni, i rumori e anche i sapori, la puzza, insomma tutto quanto. Anche perché questa settimana si festeggia il Capodanno cinese. Esatto. Ah, è vero che loro lo fanno in un altro momento. Che gran persone certo. Che sono. Bravi. Guarda che come anni loro sono al 4600 sì, e qualcosa. Sono troppo avanti. Sono troppo avanti. ha detto il mago che sono talmente avanti che hanno ancora il drago di carta. Che piccio che sei. Va bene amore, ci sentiamo alle 18 allora. Va bene. Ciao, dopo. C'era a un dopo. Altro comunicato stampa che invece parlava dei capelli più belli d'Italia e risulta al primo posto il Pupo Biondo, noto anche Bastardo. Come Marco Biondi da New York. Complimenti per la banana che hai davanti, veramente. Bravo. In che senso? Scusa? No, non in quel senso. Ciao un po'. Come fai a saperlo poi? Sapessi. Ciao. Pronto Barnaba? Cos'è sta base? No, pronto. Agata. Ma che Agata? Ah, un po' più su Agata. No, devi che fa? Fermo. Sto fermo. Ma che state facendo? Pronto? Agata, ecco un po' più a sinistra. Ma no! Aspetta, non lo trovo, aspetta! Ma cosa? Ma come non lo trovi, è enorme! Oh, ma no! Sembra una torta! Ma che è una torta? Aspettiamo anche le candeline sopra! Aspetti un attimo, chi è lei? Un attimo! Sono Mazzoli! Ah, me chicken! Buongiorno! Signora Agata, cosa state facendo che siamo in diretta? Le sto schiacciando un brufolo. Ma come un brufolo? A parlare con lei, mi faccia piacere. Ma come un brufolo? Barnaba! Sa com'è? Cosa? È uscito tutto? Aspetta un attimo, sembra un bignè. Dove c'è la sua schiena? Una montagna, veramente. Gli hanno montato pure su un nuovo via. No! Guardi, va, farò pagare per questo. Ma che cosa? Comunque la macchina... Io posso dire. Che cosa? L'ho usata lo stesso. Ma l'ha distrutta la. Vabbè, a parte che io sono un genio. Gli ho messo il motore della lavatrice. Ma come? Va fortissimo. Ma era un Porsche Cabrio, l'ha distrutta. Quando faccio i viaggi lunghi, metto la centrifuga e vado dove voglio. Vanna, va, senta. Vai di là. Ma cosa ha fatto? Ma no, gli ha sparato ancora! È grasso come un maiale, mia moglie, deve dimagrire, va! Ma gli spara lei! Madonna, va! Che cosa? Senta, signor McChicken, ma non le ha sparato, mi scusi, suo marito? Ma sono di gomma, cioè, rimbalzano, ormai sono tanto mentalmente abituata, Mi dica, signora Agata, cosa c'è? Io volevo fare una domanda. Mi dica. Ho una sensazione. Che sensazione? Che lei mi sembra uno come Giorgio Michele, presente? Come George Michael? Sì, quello che canta. Quello biadesivo? Sì, no, quello che sembra che fa tanto l'uomo, no? Ma non lo è poi alla fine. Lei è un po' così. Ma che cosa? Lui si vuole fare mio marito. Ma non è vero. Va a cagare. No, signora Agata. Guardi, va, ha ragione mia moglie. Cosa? Lei fa veramente cagare. No. Pronto. Musica e buon umore. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao. Cazzo! Ma basta con sta macchina. 27. Barnaba. Barnaba. Vede me come strada me cigente sta governato. Me cigente. Barnaba. Come faccio adesso di domenica? Non posso più uscire senza la mia bella macchina. 127. Stia calmo, ok? Troviamo la soluzione a tutto, va bene? Guardi, ma ho passato la notte in infermerista. In infermeria? Sì. A fare che cosa? Mi sono sparato i piedi ieri. Mi ricordo ieri, sì. Però per fortuna. Cosa? L'ho preso di traversa. e mi sono limato le unghie. Dai, io le taglio ogni tanto, va, perché mi serve. Devo tagliare la carne, no? Certo. Per cucinare, quindi. Sì. No, coi piedi! Ma non lo dica in giro, va! No, ma che schifo! Barnaba, senta, allora, ho la soluzione ai suoi problemi. Io. Oggi, prima di arrivare in radio, ho portato la sua macchina dal carrozziere. E il carrozziere mi ha appena chiamato, mi ha detto di andare a ritirare che è tornata nuova. Ma sì, che guardi, veramente, è vero. Glielo giuro. Io l'ho sempre detto, guardi, mi ha commosso. No. No, Vallesi, no. Sì. Questo l'ascoltavo sempre la sera quando entravo in casa col 127. Senta, mi tolga Vallesi, se no la macchina non gliela ritiro più, eh. Va bene, va. Senta, mi deve passare un attimo David, perché devo mettermi d'accordo con lui su una cosa. Vogliamo fare una sorpresa. E la macchina quando me la porta? La macchina gliela porto oggi pomeriggio, non si preoccupi. E la macchina quando me la porta? Gliel'ho detto, gliela porto oggi pomeriggio. Si facciano affari se! Lo so, me l'ha detto 10 volte! Ma che fa? Mi prende per il dietro! No! Non mi faccio dire culo! Mi passi, David! Aspetta un attimo, va! Sì! David! David! David! Pronto. Eccolo qua. Basta. David. Ciao. Che voce c'hai? Ho preso da raffreddore. No, piccolino. Sì. Ah sì? Senti che raffreddore. Non riesci più a parlare, amore? No. Ascolta, vado a ritirare la macchina di Barnaba dal carrozziere, gliel'ho fatta sistemare, è tornata nuova. Ci becchiamo io e te, magari andiamo insieme a riportargliela così è tutto contento? Sei sicura? Sì. David, stai male? Sì, perché ieri sera sono stato tutta la sera nudo sul letto. Ma a far che cosa? E c'era la Carrà in televisione. La Carrà? Sì, a me piace. E cosa hai fatto nudo? Che cosa? Te lo posso dire. David, c'hai 4 anni. Sì, ma lui ne ha 28. Non ti chiedo lui chi. Senti, allora a posto, ci troviamo più tardi? Sei un amico, guarda, veramente, grazie. Ma che tu, Marco, fai sempre cacare. No! David! Non so di 105! Mazzoli, da quando ho visto in televisione mi fai veramente cagare. Vai Lady Oscar di Trieste. Ma porca miseria! Ma che palle, oh! Saranno belli gli altri conduttori televisivi. È bello per dire, non so. Però... È bello. Come si chiama? Mengaci. È bello quello. Vogliamo fare il matrimonio, signora. Ho visto suo marito, veramente molto bravo. Suo marito, sposeremo domani. Lei è la madre dello sposo? Sì? Ecco, lo porterà a mangiare stasera con me. Grazie. Cosa facciamo, padre dei padri? Lei che comando ormai qua. Possiamo mettere... Zitta, prima di svelare il caro famoso. Sì. Lo so se sei accorto. No, la prego. Aspetti, prima le dico questa cosa, però la dicevo più avanti. Ma non si capisce se la dice. Lo sa che c'è anche la pagina 71. No! No! Non farti troppe domande e non perdere la prossima puntata di La Mucca. Capirai. Presto al cinema e in anteprima audio solo su 105. Che gran film, è incredibile. Questo è il meglio dello Zoo di 105. Lo Zoo di 105. E quando va al supermercato, sì? Ruba le 500 lire dai carrelli. Ma non, è vero, dai, Di Maggio. Fai la gran persona anche tu. Questo è il meglio dello Zoo di 105. Dobbiamo fare una cosa molto importante adesso. Parlare della situazione del traffico in Italia. Però... A questo punto ricordiamo anche che anche noi all'interno del programma abbiamo uno spazio dedicato al traffico. Non si chiama autotraffic, ma si chiama Wender Traffic, ovvero il servizio di viabilità più deficiente d'Italia. Cosa ridi? No, sono cose serie. Certo. Torniamo tra poco con il meglio dello Zoo di 105. Questo è il meglio dello Zoo di 105. Domenica non è che adesso tutte le domeniche facciamo il meglio dello Zoo di 105. Domenica bestiale. Senta, padre dei padri, vogliamo ricordare che lei, oltre a essere l'uomo più ricco del mondo, essere l'uomo con più inventiva in tutto l'universo, l'uomo con maggiore aziende di qualsiasi altro pianeta nel sistema solare. No, è per ricordare. No, lecca lei. No, io non lecco. Sì, lei lecca. No, beh, però voglio dire, io la devo un po' ringraziare, perché un uomo della sua portata, della sua importanza, un uomo così grande che si presta tutti i giorni per un programmino radiofonico, insomma, piccolino rispetto a lei. Io mancano pochi giorni al Festival dei Festival. Sto parlando. San Jimmy. Presto anche su 105. Festival di San Jimmy. Il Festival di San Jimmy, sì, condotto dal padre dei padri Jimmy padre e dell'Enoir Casalegno. Zitta. Io le sto facendo i complimenti. Ho trovato un ruolo anche per lei. Cioè, per il festival. Lei parteciperà al festival. Davvero, grazie. Prego, prego. Cosa farò? Farà il leggio per i maestri d'orchestra. Dai, ma perché? Visto che lei è dotato di una certa calapagine. Sì. Va bene. Senta, io so che comunque il Festival di San Jimmy è un festival serio. È un festival dove non ci sono assolutamente persone spinte. Esatto. Vero? E quindi a questo proposito vorrei dire che è balzato in testa alla classifica negli ultimi giorni. Dei favoriti? Rocchettino. Rocchettino con il pezzo che si chiama? Cattiverie. Che spacca. Qua è veramente spacca. Una potenza. Andiamo. Festival di San Jimmy. Concorrente numero 7. Buonasera a tutti. Questo è il nuovo pezzo. Si chiama Cattiverie. Non sono venuto qua per vincere, ma solo per partecipare. Vai! Non sono venuto qua per vincere, e allora cosa vieni a fare? Ma come? Non sono venuto qua per partecipare, ma sono qua per vincere. Ma dai! E ora mettiti d'accordo con te stesso. Sono tutte cattiverie. Sì. Quelle che dice la gente. Ma cosa c'entra? Sono tutte cattiverie. La gente mente. Certo. Sono tutte cattiverie. Quelle che dice la gente. Sono tutte cattiverie. La gente mente. Spacca, Rocchettino spacca. Scrivete. E mandateci anche le vostre cassette, perché stanno arrivando veramente tantissime. Bravi. Radio 105, via Turati, numero 9, Milano. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Vota la tua canzone preferita del Festival di San Jimmy all'800 105 105 o via fax allo 02 655 1245. Se vuoi partecipare al Festival di San Jimmy, ecco, invia la tua canzone allo Zoo di 105. Sì. Radio 105, via Turati 9, Milano. Andiamo. Festival di San Jimmy. Perci mio figlio applaude, guardi. C'è lì David. Bravo. Ciao amore. Bravo. Come stai, piccolino? Fatti gli affari tuoi. Dai, ma non mi tolto. È giusto, lei perché deve sempre mettere il naso nelle questioni della famiglia, imperiale, certo. No, senta, io devo fare una pausa pubblicitaria, però tra poco torniamo con tutto il meglio degli ultimi 5 mesi dello Zoo di 105. Papà? No, papà. Dov'è quella del videogioco? Quella che va in mezzo ai patazzi. Ma chi? Senti, David. Senti, e non c'è. Io ho fatto una promessa ai ragazzi che sono collegati in chat in questo momento. Siccome stavo usando lo pseudonimo di Wender, perché è lui che chatta solitamente. Sono io, giuro, e saluto. Siete in troppi, però 75 sono un po' troppi da salutare. Però ci provo. Aspetta, c'è un Gibba Fasullo. Poi saluto Queen. Voglio Mazzoli. C'è uno che si chiama Voglio Mazzoli. Poi aspetta, guest. Cos'è? 537, una cosa simile. Poi c'è True. Poi Kimba. Poi Pallina. Poi Prada. Psiche. Mamma mia, quanti siete? Comunque è vero, siamo noi. Poi cosa? Greggio, scusami. Poi vai avanti, dai. Qui sto scorrendo di tutto. Ale 77. Abrante, basta. Dobbiamo fare una pausa. Torniamo tra poco con il meglio, oddio, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Fra poco. È il terzo incomodo, anzi il quarto incomodo. L'unico uomo nel gruppo. Cosa c'entra lui? Mandiamolo via. Tipo, Tipo quello che scrivono i nostri ascoltatori. Ciao padre dei padri, un motivo per cacciare il barbone pezzente Nasone Mazzoli è questo: ha bidonato la grande inviata Lilli. Ciao Robby da Brescia. Ma non è vero, non ho mai avuto una storia con lei io. Bastardo. Poi, aspetta. Uno, cacciarlo per farlo assumere a Radio Maria, così soddisferà le suore con il suo naso. Ma smettila! Non si possono scrivere queste cose. Poi saluto Marta? La Marta? Dice: hola Cico, vagabundo, barbone, amore, amore. Quando ti vedrò in TV, fai un programma via Sat. No, ricordiamo che tutti i giorni dalle 4 meno 20 alle 4 c'è un programma su Italia 1 che si chiama Express, e dove io praticamente mostro il mio naso in tre interventi. Cosa ridi? Vergognati. Ma che cosa? Puoi andare veramente in televisione con quella roba di davanti? Vabbè, oh, mi hanno voluto così. Siete che avevano bisogno di qualcuno che bucasse lo schermo, capito? Non piace. Non piace, non piace. Parliamo di cose che piacciono, un grande festival. Mancano pochi giorni al Festival dei Festival. Ecco. San Jimmy, presto anche su 105. Festival di San Jimmy. Il Festival di San Jimmy, condotto dal padre dei padri, Jimmy, sì? E dell'Enoir Casalegno. Gran persona, Lenoir. Una che non si metterebbe mai con un disc jockey. Che mai, no. Una che non avrebbe mai voglia di avere un figlio. Ma mai nella vita. Ma no. Allora, attenzione, allora, stiamo ricevendo un sacco di cassette, tra l'altro, da parte degli ascoltatori. Continuate a mandarcele, l'indirizzo è Radio 105, via Turati numero 9, Milano. Tra i vari concorrenti io riproporrei il concorrente numero 1, il primo. Si chiama Gianni Riporto, vai. Festival di San Jimmy, concorrente numero 1. Mi son svegliato stamattina, avevo tutti i capelli sul cuscino. Mi son svegliato stamattina, avevo tutti i capelli sul cuscino. Non so più che cosa fa, perché adesso sono tutto pelato come una lampadina. Capelli, cuscino, riparto. Il riporto no, no, non lo farò. Il riporto mai. Che schifo. Meglio pelato, sì, meglio pelato. Gianni Riporto con capelli, uno dei tanti concorrenti all'interno del Festival di San Jimmy, che sarà in contemporanea con il Festival di Sanremo. Ormai certo, l'ha schiacciato, l'ha annullato quasi. Forse non lo faranno. Ma infatti forse non lo faranno neanche più. C'è Fazio, poverino, che è quasi senza lavoro ormai, perché sai, lo conduce il padre dei padri con il Enoir Casalegno. O no? Sì. Beh. Ricordiamo i numeri per partecipare e per votare le canzoni che preferite del Festival di San Jimmy. Vai caro. Vota la tua canzone preferita del Festival di San Jimmy all'800 105 105 o via fax allo 02 655 1245. Che gran festival. Dopo ne sentiamo un'altra. Cioè, vabbè, il mio disco preferito è quello di Rocchettino, anzi è il favorito secondo me proprio del Festival di San Jimmy. Sì, adesso sì. Un testo incredibile, parla delle problematiche giovanili proprio. Però ci sono anche le gemelle perverse che non sono male. Anche i manovali però, eh. Gli aliti pesanti dove li mettiamo? Gran persona. Intanto vi ricordiamo che questo è il meglio del peggio dello Zodi 105. Adesso mettiamo gli Eiffel 65. Questa è Move Your Body. Il disco di David, questo, del figlio di Jimmy. Il nuovo delle Naftalina si chiama Non salti come me. Perché? Perché? Perché? Cosa facciamo, Pippo? C'hai una sorpresa per me, un regalo. Attenzione. Ecco. Attenzione. Ah. Attenzione. Sì. Ehi tu. Sì. Sì, tu. Ti sei mai chiesto perché ascolti tutti i giorni lo Zodi 105? No. Un programma che non piace. Non ti dà fastidio avere un naso che ti spunta dalle casse ogni volta che ti sintonizzi su 105? 105. 105. Non diventi screziato, zizzagnato, zizzagnato. Pensaci bene. Pensaci bene. Sei ancora in tempo. Ma che cosa? Puoi ancora evitare di farti male. Ma per favore, andiamo avanti. Va. Gli infamoni di tutto il mondo che prendono in giro le persone giocando con i sentimenti e con il cuore degli altri. Bastardi, non si fanno ste cose. Questo è il nostro New For You, novità di oggi su 105 all'interno del meglio dello Zodi 105. Meglio un parolone. È il nuovo di Barbara Tucker con The Bonu, era Stop Playing With My Mind. Noi facciamo una pausa ma torniamo tra poco, e chi cambia radio è un peccato, è un grosso peccato. Mago, cosa accadrà? Questa volta esplode la testa. Ah. Fa un po' male ma non si sente, perché non te ne accorgi. Certo, però dopo non hai più. E pazienza. Vabbè, a fra poco. da di da da da. Scusa Marco. Dica. C'è una ragazza, penso sì. che sia. Sì, si chiama Voglio Mazzoli in chat. Voglio Mazzoli, sì. Ha detto che se non la saluti si ammazza. Ciao Voglio Mazzoli. Come si fa a entrare con un pseudonimo del genere? Questo è il meglio del peggio dello Zoo di 105. Adesso vi facciamo sentire quello che è successo qualche giorno fa, quando io ho chiamato a casa di Jimmy e a un certo punto mi ha risposto suo figlio David. Non vi dico altro, sentite un po', andiamo. Pronto? Cos'è sta musica ancora? Ma non è possibile, ma ogni volta cambia. Cos'è? Evi? È vero cosa? Jimmy? Jimmy, sono Marco. Per motivi di tenso traffico. Ma... le linee sono momentaneamente occupate. Sì. Ma cos'è sta roba? Se non volete perdere la priorità acquisita. Sì. Rimanete in linea. Ma sono sempre in linea io, pronto? Barbone. Pronto? Siete in attesa di essere collegati. Di essere collegati. Con l'interno desiderato. Pirla. Siete sempre in attesa di essere collegati. Di essere collegati. Con l'interno desiderato. Con le V delle V. Beh, certo. Per non perdere la priorità. Sì. Schiacciate il tasto E V. Ma non ce l'ho il tasto, è vero? Pezzente. Ecco. Ma cos'è sta musica, oh? Ah, Marco, ciao, sono Demi. Visto che fai il furbo con tutti, io me approfitto e ora mi trasformo in un alieno e ti massacro di mazzate, guarda, Perché? Perché? Perché? Perché? No! Perché? No! Perché? David! Perché? David! Perché? Fai bravo! Perché? Ho sfuggito di nuovo! No, David! No. David. David, no. No, è qua. No, David, no. Questo è il meglio del peggio dello Zoo di 105. Dopo dobbiamo rispondere a un fax di un ascoltatore che ci fa due parti sferiche così riguardo una... Eccolo qua, aspetta. Allora, Mazzoli, hai paura di essere tagliato fuori dall'azienda se parli del fatto che non è giusto mandare spot politici in radio. Allora, io ti dico una cosa, innanzitutto questa è una radio commerciale, quindi noi viviamo grazie alla pubblicità. Puoi capire che quindi più pubblicità c'è e più cose possiamo fare, sedi di qua e di là, perché noi non abbiamo un canone, capisci? Seconda cosa, noi facciamo un programma dove... Vabbè, innanzitutto non piace, però dove ci vogliamo divertire? Noi della pubblicità non ce ne frega un'emerita mazza. Che poi sia giusto o sbagliato, questa è una cosa che dovete assolutamente giudicare voi. Però io non ci posso far niente, ti dico solo che giusto o sbagliato che sia, ci vuole, perché sennò non si magna a fine mese. Non si paga la corrente perché nessuno ci dà i soldi e non va in onda la radio. Quindi vedi tu se va bene o non va bene avere spot politici in onda. Ah, che palle. Bravo, bravo! Grazie. Vabbè, ho capito. Tu il coglione è andato avanti tre ore a mandarsi fax. Mamma mia, io che ci posso fare? Io lo voglio lo stipendio a fine mese, scusami, Oh. Mettiamo lo spot della Jimmy Airlines edizione San Valentino. La Jimmy Airlines, linea aerea del vero pezzente, ti ricorda la grande offerta di San Valentino. San Valentino. Per ogni volo sulla Jimmy Airlines, sì? In omaggio a tutte le coppie, un diamante solitario, due orologi Cartier, certo. 30 miliardi in contanti, due pernottamenti all'hotel Vieni su da lì, no. A 20 stelle, beh. Una limousine full option, sì. E un anno di cene gratis nei ristoranti più belli d'Italia. Tutto questo, sì. Solo se voli con la Jimmy Airlines. Ricordiamo ai signori passeggeri, sì? Che ogni volo di qualsiasi durata costa solo 6.000 lire. Guarda caso. Buon viaggio con la Jimmy Airlines. Le tue nuove ali, barbone. E adesso attenzione, alzate il volume. Anche se mettiamo le pubblicità dei politici, continuate ad ascoltarci. Oh, mamma mia. Ma basta. A noi qua del calcio o della politica frega niente. Bravo. Noi siamo liberi, così, facciamo quello anti che vogliamo. Antitutto proprio. Oh. Non parliamo mai di calcio, di politica, non ce ne frega niente. Siamo quasi arrivati alla fine e poi ci colleghiamo con gli studi di Miami, di Radio 105 per la Miami Beach Countdown. Alright everybody, feel the funk sound. Prima di chiudere volevamo riutilizzare la macchina del tempo per farvi sentire quello che accadrà al povero Mazzoli nel 2010. Sentiamo, vai. Accensione macchina del tempo. Ah, ecco. Sistema operativo. Sì. Pronti per il teletrasporto. Benvenuti nell'anno 2010. Sì. Ecco che cosa farà il DJ Marco Donatello Mazzoli. Ah, ancora ci sarà. Vabbè. Popolo della Terra, oggi 27 febbraio 2010 l'uomo sta per compiere un ennesimo passo verso nuovi mondi. Oh. Abbiamo cominciato negli anni 70 con la Luna. Sì. Nel 2003 siamo andati su Marte. Sì. Nel 2005 Giove. Ma oggi finalmente, dopo tanti tentativi, arriveremo sul pianeta Saturno. Per questo esperimento non volevamo usare innocenti animali, no, nemmeno sonde inutili, ma un essere respinto dalla Terra e da chi la popola. E allora, dopo diversi sondaggi, sì, useremo lui, sì, il nostro caro Marco Donatello Mazzoli, no, l'essenza del pezzente. Ecco. Pronti per il lancio? 5, 4, 3, 2, 1. È partito! È in volo! Tutto procede! Ma... ma cosa? Ma... no! Ma... no! No! E vabbè, è esploso! Ma pazienza! Che peccato per l'astronave! E io? Tutti a casa, dai, ci riproveremo un'altra volta. No, Wender, non ci sarò più nel 2010. Dispiace. Che cosa? Per l'astronave. Ma come? Veramente, costerà un parecchio di soldi. E io? Chi? Io. Vabbè, ma chi se ne frega di te, dai. Che bastardo. Hai ancora 10 anni, ha voglia. Beh, grazie. Mettiamo l'ultimo disco di oggi del meglio dello Zodi 105. Hey, questo è Will Smith. I'm freaking it. I'm about to freak this, freak this, freak this, freak this. Mazzoli, oh, io per il tuo naso non darei neanche 500 lire. Bravo, bravo, bravo, bravo. Oh, Mazzoli. Ehi. Senti, io ho un'idea. Che cosa? Siccome io sono uno della Croce Rossa, magari riusciamo a fare una raccolta a livello, no, umanitario. No, io non voglio rifarmelo il naso. Ti spiego il perché. Il giorno in cui io mi rifaccio il naso e divento un bel ragazzo, oddio, insomma, divento più guardabile, poi non mi rompe più le balle nessuno e si dimenticano di me. Invece io, grazie a questo naso, forse un giorno diventerò qualcuno, hai capito? Ma no, non ci credi. Non ci credi, lo spero io. Non ci credo, perché tu... Tu? Tu sei super, quindi anche senza naso va bene. Ma sei pazza, allora dillo subito. Sei biadesiva, sorella. Ah! Amore, ascolta, noi ti regaliamo il CD di Mariah Carey, ok? Ok. Sei contento? Contentissimo, guarda, ho detto figurati se riesco a prendere la linea. E invece ce l'hai fatta. Amore, ti salutiamo, un bacino. Ciao a tutti. Ciao bell'uomo, ciao ciao. Siamo sempre molto vicini. Grazie, ciao, tesoro, ciao, ciao, un bacino, ciao. Ciao. Ale. Una radio senza appuntamenti, eh? Grazie, Grazie per gli spazi che c'è, boys. Sono stati molto intelligenti a chiamare Raul Casadei per fare questo disco, eh? Vediamo un liscio. Sì, amore. Hanno chiamato anche Papetti per suonare i sax. Ah, ecco. Ma cosa hanno bevuto i Venga Boys? Cioè, non lo so. Non lo so, è un po' strano sto disco, non è il loro stile, no? Una volta lo facevano Ibiza esatto. E Up and Down. Ma che ne e vieni so su da lì. Bah, io non capisco. Si sono cambiati. Senta, mettiamo un disco di San Jimmy, visto che ci stiamo avvicinando. Guardi, glielo stavo dicendo io. Bravo. Non è che mi legge nel pensiero? Ma potrebbe anche essere. Oh. Festival di San Jimmy. Leggere, concorrente numero 4. Chi sono questi? Sono i The Voice. Ah, i The Voice. E che lingua parlano? Oriunda. Ma cosa dice? Cosa sta dicendo? Che bravi. Remember my member? Sì, praticamente spiega che anche le persone famose. Cosa? Hanno avuto problematiche sessuali. Remember my member. Yo. I want to secure the more tears to dawn. Never mind tonight, but it's all tonight. Cosa I want dice? The tears to scare dawn for tonight. 1, 2, 3, 1, 5. Well, tears to have a dawn in the night. Certo. Vabbè, il The Voice all'interno dei grandi festival. E me la passi o no sto cantante? Mamma mia! Abbassami sto disco! Zitta, le canzoni va sentite fino in fondo, perché su una canzone c'è una storia dall'inizio alla fine, ed è una problematica giovanile che spiega come fa a troncarmela in mezzo. Qualcuno è nervoso? No, nessuno oggi è nervoso. C'è nervoso nell'aria? No! Questi si impegnano, stanno dei lati interi a scrivere una canzone sulle problematiche giovanili del sesso legate ai membri, eh? E noi siamo qua a dire che dobbiamo interromperla. Guardi che lei veramente si dovrebbe vergognare. Legata a che cosa? Questa è Radio 105, questo è lo Zodi 105, con Mazzoli, con il mago dei maghi, Wender, il padre dei padri, il creatore dei creatori, Jimmy, e l'alitato degli alitati, il leone di Lerni. Hai baciato persona. Leone? Ho baciato leone, perché? Si sente. Ma non è vero! Dobbiamo giocare anche oggi con i Video Store Blockbuster. Bravo. Facciamo ascoltare un pezzettino della colonna sonora di un famoso film. Se ci dite di che film si tratta, chiamandoci all'800 105 105, vi regaliamo un sacco, esatto, di cose. Oggi diciamolo, è pressoché impossibile indovinare. Perché? Fanno i quiz difficili. Beh, bravi, bravi. Neanche a Telemike. Essendo difficilissimo, Chiediamo al mago. Lo chiediamo al mago. Perché se è difficile. Mago, che film è? Scusi. Che film è? Questo è Gesù da Nazareth. Ma che cosa? 800, 105, 105. Grandi Foo Fighters con Learn to Fly su Radio 105 all'interno dello Zodi 105, un programma che non piace. E ormai questo è ufficiale. Salutiamo una persona che dice: ciao Barbone, dimmi se questo fax è arrivato, se no ti esplodono i piedi. E guarda che io non sbaglio mai le previsioni, stai attento. Fatto. Poi salutiamo Sara che ci ha faxato, ma adesso giochiamo con quelle gran persone dei Video Store Blockbuster. Oh. Wow. Ma Tony, sbrigati che ho fretta. Pensa a te. Pronto? Pronto. Chi sei, amore? Sono Chiara da Verona. Hai fretta? Sì, ho fretta. Oh, già la città da cui chiami. Beh, la città dell'amore, dai. Che città, sì, dell'amore? Sì. La città. Solo per te la città dell'amore, guarda. No, io adoro, Verona è una città bellissima. Però spesso e volentieri i ragazzi di Verona mi mandano i fax dicendo: sappiamo che non ti piace Verona, però ci saluti lo stesso. No, non è colpa di Verona. È che l'asinella proveniva da Verona, hai capito? Allora da lì è nato l'odio verso quella città. Ma io la amo in realtà, cioè la città in se stessa è bellissima. Non mi piace una via, diciamo, di quella vabbè, città. Vabbè, ma cose personali. Così. Amore, abbiamo fatto sentire il frammento di una colonna sonora di un film molto famoso. Sì. Non era Gesù di Nazareth. Che film era? Cerca di Susan disperatamente. Come fai? Lo so, guarda. Come hai fatto, amore? Ho tirato a indovinare. Sei una gran persona. Ti regaliamo 3 noleggi gratuiti, una tessera alla Blockbuster, una videocassetta, il cappellino e la maglietta di 105, ok? Va bene, grazie. Ciao, mille. Amore mio, siete grazie fortissimi. A te. Grazie, ciao. Amore, ciao. E vi segnaliamo il film del giorno. Qua però è Corticircuiti erotici. C'è scritto. È scritto. Tinto Brass presenta 3 registi e 3 film in uno. Bravo. Come finisce il film, mago? No, non mi va di dirlo, dai. Il maggiordomo. Il maggiordomo. Va con la cameriera. Bravo. Ecco. Benissimo, l'appuntamento con Blockbuster è per domani alle 5:30 su 105. Gli Eiffel, oltre a vendere milioni di copie con i loro singoli, si mettono anche a remixare, anche lì. Bravi, va bene, scusa. È il loro momento e va sfruttato. Allora, siamo un po' in ritardo, quindi andiamo di fretta, perché adesso c'è in anteprima mondiale la 6ª puntata della classifica dance del futuro, eh? Evi. Evi. benvenuti a tutti alla sesta edizione della Devil Mania Mix su Jimmy Network. Ecco. Alla parte tecnica abbiamo lui, Beauty, e io sono David. Iniziamo adesso, quinta posizione, Luna Pop, nuova entrata di questa settimana. Ma che cosa? Vai, Beauty! Vado! Con la cassa sotto! Sì, sì. Vai! Senti. Alla quarta posizione questa settimana abbiamo un'altra nuova entrata, i gatti di Piccolo Miracolo. No. Con Capita. Sì, sì. Hai capito? Ah, sì. Sei sicura? Sicuro. E allora vai, Devi Mania Mix. Capita. Voglio l'erba, voglio un po' di foglio d'altro mare. Con la cassa sotto. Hey. Yeah. Voglio trascinare nella moody sotto un plaid. Sì, sì. Capito. Bene, alla terza posizione rimane instabile questa settimana Nano Nano di Rendale. Stabile. Apri piano. Ma gli fa la scaletta a Puccio? O De Robertis? Apri piano. Bene, alla seconda posizione questa settimana. Cosa stai facendo, Woody? Ho sbagliato disco! È proprio di vaggio, sfuma, non è per noi questo! Scusa, ho sbagliato! Posso scrisciare? Vai! Che bravo! Che giuccio? Sì, sì! Allora, la seconda posizione rimane stabile, Bobo Super Canning Grid! Che discone! Mania Mix. Questa settimana alla prima posizione abbiamo lui, chi? Robot d'acciaio. Numero uno, eh? Sì, che bravo, fallo ancora. Vai. Bravo, Woody, eh? Alla faccia di Gibba. No, che abbiamo, Bibi? È un'ora che aspetto. No, chi? Senti, ti ho portato. Che bella. Mi viene già piangere. Perché? No. Mi ricorda la mia ex fidanzata. Gilberta. Sì, sì. Gilberta. Fatti mandare no. dalla mamma. Mettimi la cassa, dai. Vado. No. Sì, sì. E questa è la Devil Mania Mix. Vai col bastone. No! Che versione è? Prendere la... Vai, David! Bene, la sesta edizione della David Mania Mix su Jimmy Network finisce qui. Io ringrazio tantissimo papà, ringrazio tantissimo David perché è bravissimo a fare il tecnico e ci aspettiamo la prossima settimana su David Mania Mix. Ciao da Beauty e da David. Ciao! Ciao a tutti! Di cosa? Cosa dici? Te lo dico domani, non riesco. Va bene, salutiamo tutti. Ciao. Lo Zoo di 105. Dai, smettetela. Di cosa? Lo so, ma cosa devo fare? Siete uomini, parlate tra di voi. Oddio. Uomini, una parola grossa lì, eh. Senta, bisogna andare a casa. Abbiamo finito. Siamo in ritardo. Va grazie ai ragazzi di New York che ci hanno concesso qualche minuto in più. Vabbè, per la David Mania Mix si fa questo ed altro. Esatto. Dai. Grazie a Gibba per la parte tecnica. Grazie a lei, padre dei padri. Grazie al mago Wendell. Grazie all'alito di Leone di Lernia. Da Mazzoli è tutto. Ci risentiamo domani dalle 4 alle 6. Ci vediamo in TV dalle 4 meno 20 alle 4. Grazie. Un grazie applauso. Radio, grazie alla radio per i promo del programma. Grazie. Un applauso a Peroni e Carboni. Oh, che gran persona! Grazie! Musica è buona! Due persone che non hanno mai pizzetto, ma... Oddio. Benvenuti nel 1986. Sempre ecco lì. Che cosa faceva Marco Donatello Mazzoli. Bastardi. sui film Batman, Indiana Jones, L'ultima crociata, Ghostbusters 2 e Arma Letale 2. È un record naturalmente grande, molto grande. C'è Andrea che fa il sorrisino di Batman, no, di Joker. Visto che sottoscritto è fortunatissimo e lui ha una copia di Batman a casa su videocassetta. Beh, non perdiamoci in crack, in chiacchiere. E prima di veramente esaltarci con la grande musica, volevo ascoltare una canzone piuttosto dolce di Joe Cocker. Questo ovviamente è contenuto nel suo 33 che si chiama One Night of Sin. Questa si chiama Letting Go. Non si impaperava mai. Radio City. L'intro? Ma solo l'intro doveva prenderlo più avanti, qui. Ah, ecco. L'ho preso io. Che schifo. Sindreril. Salutiamo Bussinello della serie Un altro viaggio all'interno della nostra fantastica azienda e del terzo piano, là dove dominano sopra le nuvole. È come nei film di Fantozzi, uguali, tu sali, tutto bianco, nuvole ci sono. Marco, scusa se ti disturbo quando sei in diretta, ma hai dimenticato le pantofole a casa mia e ti ricordo che mi devi ancora 6.000 lire. Ma che cosa? Marco! Che cosa? Ma vai, finto. Ma cosa hai finto? Oggi se vinci. Cosa ridi? Hai una cartoleria in tasca? Allora, guarda che era finto. Sì, sì. Certo, è sempre tutto finto qua. Mago, era finto. Allora, io in onda dico quello che succede nella mia vita. Vabbè, non nascondo niente. Adesso è finto. Ma certo. Chiameremo. Cos'è sta distorsione? Chiameremo Bari e Padova, ok? Ci siamo? Cosa c'è, Gibba? Guardo. Oggi il mix si fa gli affari suoi. Hai sistemato il problema? A posto, dai. Chiamiamo Bari e Padova, attenzione. Mugisce vinci in corso, maglietta o cappellino di Radio 105. Non capisce nessuno. Entro Natale, Gibba, comunque. Ah, poverino. Allora, fa fischiare tutto. Ma che tecnico è oggi? Non lo so, è screziato. E i telefoni. Certo, quindi... Vabbè, intanto vi raccontiamo la storia della nostra vita. Io nacqui nel lontano 20 ottobre 1972, ero un bambino tutto naso. Poi piano piano si sviluppò anche il resto del corpo e vabbè, rimase quasi il naso grosso, quasi. Marco! Oh! Ho risposto! Bravo amore! Sei bravissimo! Come stai, Danilo? Bene. Recche de gaumu, baffo, dico per te, un picchio cumplanu. Qua ci voleva Leone di Lerner. Ma quando... tre volte che rispondevo, non lo so. Non ti sentivamo, tesoro. Ho capito. Ascolta, lo sai che noi siamo a Putignano, vicino a Bari, il 26? Ah, bene. Ci verrai a trovare? Certo, come no. Verrai a toccare il mio nasone, certo, vero? Certo. Che gran persona che sei. Ma allora non c'è bisogno che venga a Putignano, arriverà direttamente qua. Bastardo. Ascolta, amore, vuoi il cappellino o la maglietta di 105? La maglietta. Va bene, te la mandiamo. Un bacio a tutta Bari, anzi a tutta la Puglia, ok? Ok, ciao tesoro, ciao. Buona giornata, ciao. Andiamo a Padova, attenzione. Cosa fai? Piatto per Mazzoli, pronto, quanto tavolo? Che simpatico, bravo. Era per trattenere un po' il tempo. Padova in corso. Ma vieni! Bravo, amore! Il cavallo anche. Ciao Nasone. Come stai, Nicoletta? Bene, tesoro. Se vuoi vedere il mio naso più da vicino, clicca con la tua tastiera, anzi col tuo mouse, l'icona con il naso. Non ce l'ho. Porca miseria, è un peccato. Miseria. Amore, vuoi cappellino o maglietta di 105? Maglietta, va bene, te la mandiamo. Grazie. Vuoi fare un salutino veloce? Saluto a tutti quelli che mi ascoltano e lo zio che è qui in ufficio con me. Gran persona. Hai voglia. Ciao tesoro, un bacio. Ciao Nasone. Ciao. Bastarda, ciao. Inspira forte. 1, 2, 3. Grazie per esserti aspirato mia mamma, che adesso ti entra. No, gran persona. Poi saluto Rio e Daniela che ci hanno faxato. Fanno gli saluti a tutti quanti di Radio 105, tranne a te, brutto barbone nasone, che non sei altro. Che per colpa del tuo naso, che fuoriesce dalla radio, mi sono accecato un occhio. Fai schifo, barbone. Grazie amore, quanto bene. Rita. Dica. mi ha telefonato un mio venditore di una delle tante concessionarie GB Car. Mi ha telefonato un certo Piero Olivieri. Sì. E mi ha detto, perché nessuno lo sa, ma lui ha anche questo secondo lavoro. Cioè, lui vende le GB Car. Esatto. Certo. E mi ha detto che lei non è vero che ha comprato quella macchina che mi ha detto a me. No, che macchina avrei lei comprato? Lei ha comprato una GB Car perché è un morto di fame. Non è vero. Non è vero. Se anche tu sei uno dei 700.000 che hanno comprato una Jimmy Car, l'auto più venduta nel 99 a Tropea, non puoi farti scappare questa nuova invenzione della È un peccato Motor. Da oggi la Jimmy Car esiste anche nei modelli Usa e Getta. Usa e Getta. Usa e Getta. Sì, le Jimmy Car Usa e Getta sono automobili che riproducono i modelli delle auto più lussuose del mondo, ma che dopo 500 chilometri sono da buttare. Grazie all'utilizzo di prodotti interamente biodegradabili, la Jimmy Car dopo 500 chilometri si autodistruggerà in pochi secondi. Ma come fa? A pensate. Attenzione, tenere sempre sott'occhio il contachilometri per evitare che l'auto si distrugga durante i tragitti in autostrada e trovarsi col culo per terra. Bravo. La Jimmy Car Usa e Getta esiste nei modelli sportivi Ferrari, Porsche, Lamborghini, eccetera, a sole 300.000 lire. I modelli lusso BMW, Mercedes, Audi a 350.000 lire e i modelli economici a partire da 70.000 lire. Jimmy Car, macchine per i veri pezzenti. Ecco. E secondo lei ho comprato un rottame simile? Sì, perché lei in conto corrente non ha alternative. Con Give Me You, che bella. Lei mi fa impazzire, veramente. Eh? No, non ti piace? Oggi ho poche parole. Come mai? Ti voglio contenere. Ah, bravo. Adesso noi dobbiamo parlare di un sito internet molto ma molto importante. Parliamo della vera novità per festeggiare il San Valentino del 2000, evitando i soliti regali, ovviamente, perché basta, ci siamo rotti, no? Facciamo una cosa diversa, un po' alternativa, capito? Quest'anno regalate un messaggio, il vostro, decidete cosa dire al vostro lui e alla vostra lei e poi usate la forza dei simboli per trasmettergli un messaggio d'amore, di passione o perché no, anche di rabbia. Se ha fatto girare le parti sferiche potrebbe essere un ottimo modo per farglielo sapere. Se vi fa soffrire lo potete dire con Nettuno. Vi magnetizza, scegliete il sole. Se invece volete dirgli che è la vostra metà, Saturno glielo farà capire. Dovete semplicemente visitare il sito www.chimento.it. Lo ripeto, www.chimento.it e lì finalmente troverete un modo alternativo per festeggiare il San Valentino del 2000. Che cattivi che siete, ma siete proprio cattivi. Ma no, dai. Ma no, ma sì, sei di Verona? Sì. Non sento più, pronto? Pronto. È caduta la linea? Che vedi, strano. Via da è strano, è incredibile. Abbassa il volume, abbassa. Ah, va bene. Disgrazia. Ecco qua. Chi sei? Mattia. Ciao Mattia. Ciao Marco. Tutto bene? Sì, sì, tu? Molto bene. Bene, bene. Oggi non sono scherziato. In TV. Ah sì. Comunque è vero che sei un Little Tony, però. Ma quale Little Tony? No, no, è vero, è vero. Stai attento al programma, Wender. Sì. Basta questo computer. Sì, papà. A parte che mi hanno detto che poi vai un po' dietro Petra, però vabbè, insomma. Ma no, ma giusto un pelo. Vabbè. Giusto un pelo, vabbè, vabbè. Un po' se lo merita, eh. D'altronde basta che respiri, no? No, non è così. Sì, ecco, sì, è una ragazza che ha molta memoria davanti. No, no, ma due, è vero, amico. Ha due memory card da quinta, hai capito? Allora, sì. Bene. Solo che è fidanzata, quindi prima o poi il suo fidanzato mi massacra di pugni. Esatto, ha due begli occhi. Diciamo. Certo. Belli grandi. Ascolta, ti regalo l'album di Macy Gray, va bene? Grazie mille. Ciao grazie. Barbone, vattene a comprare i CD, altro che te li regala 105. Ok. Ciao amore. Ciao, qual è la tua radio preferita? La mia? Radio Maria. Ok, ciao. Se scoprissi che anche i Five sono un po' biadesivi e poi scoprire che i Backstreet Boys sono tutti biadesivi e poi i ragazzi italiani, quello e quell'altro, così alla fine rimaniamo in 3 o 4. Ale, si festeggia. Beh, ormai tu Leone purtroppo non sono un adesivo io? E che sono? Un manifesto? Non hai capito la mazza. Biadesivo vuol dire che sei uno che appiccica da entrambe le parti, nel senso che... Ah, ho capito, ma io... Ugo, sto parlando con Leone, già è difficile parlare con quest'uomo. Dai, un po' di educazione. Se poi interrompi. No, non è che è difficile. Beh, abbastanza, poi con l'alito che ti ritrovi. E quella è colpa tua, mi fa lavare i denti ogni 4 anni. Io? Senta, padre dei padri, ma suo figlio David è un po' che non lo sento. Cos'è? Sì, perché... Cos'è sta base? David, sei tu? Marco. Scusami David, stavo facendo il programma. Cosa c'hai? Cosa è successo? Devo parlare. Oddio mio, David. Cosa c'è, amore? Mi hanno sospeso a scuola. No, piccolino. Come mai? Hai preso un brutto voto? No, no. Cosa hai fatto, David? La maestra si è arrabbiata perché ogni volta che va in bagno gli esco da sotto la gonna. Come da sotto la gonna? Sì, sì, perché io in classe vado subito sotto la gonna. Ma tu non stai mai sul banco? No, no. Come mai? Mi piace. Ah, ti sei innamorato della maestra? Sì, sì. Ma piccolino, adesso quanti giorni devi stare a casa? 23. 23 giorni di sospensione? Sì, sì. Sei peggio di me? Sì, lo so. Ecco. E beh, ho fatto un po' il furbo. E adesso come la mettiamo con tuo papà? Vuoi che glielo dica io? No, ascolta, io ho pensato di fare una cosa. Dimmi tutto, David. Io al mattino faccio sì. finta di andare a scuola. Sì. E sto a casa tua. Ma come stai a casa mia? No, no, no, no, no. Sì, sì. No, poi papà mi becca e si arrabbia con me. Io non voglio fare sti giochetti, dai. Ok? No, e cosa facciamo a casa mia? Io gioco con la PlayStation. Ah, certo. Mi porto tutti i miei giochi, però. Ah, nei tanti? Sì, sì. Che giochi hai? Ho 47 bambole. Che gioco è? Sì, sì, ma sono grosse, grandezza donna. Ah, sì? Sì, sì, le uso un po' tutto il giorno. No, David, c'hai 4 anni. Gli parlo. Ah, gli parli anche? Sì, sì, adesso ne ho ordinata pure una di colore, bellissima. No, David! Sì, sì. Ne hai una lì con te? Sì, sì, è verde. E passamene una, dai. Parla un po' strana. Ah, sì? Sì, adesso la chiamo. Sì, vediamo un po'. Numero 21? Vieni qua. Guarda, adesso gli faccio le domande e le risponde. Sì, vediamo, una bambola che parla. Cosa ne pensi del mio West Newark? Hai visto? Cosa vuol dire? E gli piace, ha detto. Ok. Sì, è la lingua madre questa. Certo, poi un'altra domanda, dai. Ascolta. Sì. Domani mattina appena ti svegli, cosa fai? Anzi, cosa mi fai? Hai visto? Sì, sì. Un'altra domanda, dai, è bello, David. Per te, Mazzoli, com'è? Il programma è bello, ma Mazzoli fa cagare. No! Sì, sì, hai visto? No, David! Ha preso da me. Ascolta, 22. Dimmi. Vai a posto adesso. Ah, ok. Ok, Marco? Sì. Allora vengo a dormire a casa tua? Dai, va bene, ok. 23 giorni a casa tua? 23 giorni è un po' troppo, magari un po' meno, poi vediamo. Solo al mattino. Solo al mattino, ok. Ciao, David, sei contento? Fai cagare. No, basta! Basta! Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 archivio bot. Ho saputo che ha rimesso, è vero? Sì, col pallone. È stato male? Ma scusi, ma lei cacchi suoi, non se li fa mai questo voto? Cioè, io devo farmi gli affari miei. Io sono sempre così discreto. Non dico mai niente, non racconto mai niente di nessuno, la vita privata di nessuno. E lei deve venire a dire che... Ma io lo so, ma come si permette? Ma certo. Ma si vergogni. Ma si vergogni lei che vomita in radio, dai. Ma oggi sa che dalla parte destra del naso sì. le spunta l'osso di più. Ah sì? Sì. Ma deve essere quel giorno. Guardi che è vero, Ho preso una telecamerata sul naso, è vero? Senta, ma è vero, senta. Cosa? È vero che le maggiori e più grandi agenzie di pubblicità l'avevano richiesta come tabellone per gli sponsor? No, non è vero. Da mettere all'uscita della tangenziale? No, non è vero. A me mi ha detto così, scusi. Vabbè, erano i T42 con Sharpe. Mancano pochi giorni al Festival dei Festival. San Jimmy. Sì. Presto anche su 105. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy, condotto dal padre dei padri Jimmy ed Eleonore Casalegno. Ah, gran persona Eleonore, una che non si sposerebbe mai con un disciocco con i capelli. Oh! Che persona! Una che non metterebbe mai e poi mai un giubbotto muccato rosa e nero. No, una che mai nella vita farebbe la collezione delle mucche. No! Addirittura c'ha il porta carta igenica muccato. Vabbè, comunque parliamo d'altro. Stanno arrivando il viaggio dell'azienda, giusto? Ecco, esatto. Stanno arrivando un sacco di cassette dei nostri ascoltatori, perché molti si chiedono: ma è vero che San Jimmy è aperto a tutti? È vero. Allora, noi per provare questa cosa abbiamo un artista da farvi sentire che si chiama Giorgio, se non sbaglio, giusto? Sì, Giorgio Borghese, che ci ha mandato una cassetta di una sua canzone che però è stata scartata dal festival, ma potrebbe magari rientrare, giusto? Nel dopo festival. Nel dopo festival. La sentiamo. Festival di San Jimmy. Che capolavoro. È un po' fuori fuori tempo, Giorgio. Non vuoi capire cosa c'è. Sempre un po' tardo o cos'è. Non fai apposta solo con me. No. Brutto da un vedi adesso. Sita qua, eh. Non fai finita o ti spacco in tre. No! Sei proprio scemo, ecco cos'è. Ti rido addosso, sai com'è. Non me ne frega niente di te. Non me ne frega. Qua che non entra la casa, entra il piano, mi ammazza. Beh, però è stato carino, dai, sei impegnato. Ma diciamolo che non è l'unico, eh. No, no, no, ce ne sono abbiamo tanti. Una marea di cassette che adesso piano piano faremo sentire. Comunque possiamo far sentire velocemente proprio Ila, quella che ha scritto Il Fatto, che è lei è entrata, tra l'altro, è il concorrente numero 9, se non sbaglio. Festival di San Jimmy. Concorrente numero 9. Alta ascoltatrice vera, con chitarra. Ho visto un ragazzo brutto, proprio brutto. Aveva un naso esagerato. È un plugged. Un barbone disperato. Poveretto. Ecco. Disgraziato. Oh. Da tutti era scartato. Ma non è vero. Unplugged. Unplugged. Ho visto un dio. Era bello, proprio bello. Oh. Aveva un conto in banca esagerato. Oh. Era ricco sfondato. Gimba. Tutto il mondo si è comprato. È vero. Da tutti era venerato. Adesso c'è il gran finale, attenzione. A volte il fatto è proprio bastardo. A chi troppo e a chi niente. Presente. Grazie Ila, voi continuate a mandarci le vostre cassette. Perché alla fine? Possiamo mettere l'indirizzo? No, niente. Via Turati 9. Sì, Milano. Milano. Zodi 105. Lo Zodi 105. Di là. No, ma uno. Basta. Scherzo. Sì, sì. Chiamiamo tutti, mia sorella impazzisce per te. Certo, certo. Basta. Davvero, ti vedo sempre in televisione. No, non vi voglio più parlare, basta. No, dimmi che mi ami. No, ma perché dimmi che mi ami. Facciamo una roba porno se vuoi. Tanto no, la radio è felice. Ho 17 anni ma sono qui con la mamma. Ma lei vuole che mi fai anche la metamorfosi? No, no, no, non posso, sennò mi sparano qua in radio. No, peccato. Cioè, praticamente il nostro gran presidente che ha preparato 3 cecchini qua nel corridoio. Se io oso dire una parola di troppo mi fa sparare i piedi. Ma vabbè, c'è posto anche per lui qua, la mamma è sempre libera. Ma no, il presidente no. Il presidente no. Metti alla sigla, vai. Ok. Allora, io non so neanche come ti chiami. Mi chiamo Angela. Angela. Angela. Tesoro, allora, chi è il protagonista del film Salvate il soldato Ryan? Tom Hanks. Ma bravo, numero uno. Come fai? Sei bravissima. È incredibile che questa notte la mamma sarà inghiottita dal frigorifero. No, poverino. No. La mamma no.